Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Puntata dedicata a chi ha le pile scariche, a chi fa fatica a fare, a non fare, a dormire, a stare sveglio. Oggi vogliamo occuparci di chi si sente stanco, bollito, alla frutta, esaurito. Voi come dite? 800 24 00 24, se avete un modo di dire, o anche un'espressione dialettale che è capace di descrivere la vostra situazione in questo momento. Chiamateci! Sono stanco, tanto stanco. Sono stanco da quando sono nato, sono stanco, mi voglio sedere. Sono stanco d'essere bianco e la faccia voglio tingermi. E qua in studio con me è tornato a trovarci il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano. Dottore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Autore di numerosi libri, tra cui Prevenire e curare la depressione con il cibo, Rizzoli editore. Dottor Speciani, tempi duri, siamo all'ablativo, mi scrive Antonio, ma dobbiamo resistere ancora un po' perché non possiamo mollare. Allora, oggi mi piacerebbe trovare con lei e con l'aiuto dei nostri amici soluzioni per improvvisi cali di energia. Che so, il buco nello stomaco a metà mattina, la sonnolenza dopo pranzo, la sensazione di camminare con il mondo sulle spalle. Dottor Speciani, però noi faremo anche di più, ci occuperemo anche di chi è quasi sui gomiti, altro suggerimento che mi arriva al 349-238-6666, quelli, cioè le persone che hanno una stanchezza in questi giorni che si sta trascinando. Quindi non avremo solamente degli interventi spot, ma cercheremo proprio di formulare delle strategie. Ma io credo che strategie sono importanti, anche perché intanto è importante riuscire a capire perché questa stanchezza fondamentalmente ed è legato alla fine, dal punto di vista fisiologico, alla gestione dell'acqua. Sembra una stupidaggine, però il cervello è fatto per l'80% di acqua e quindi bastano dei piccoli segnali che sono legati soprattutto al caldo, alla stagione calda indubbiamente, in cui basta evaporare un po' di più, diciamo, sì, in maniera semplice, no? Non introdurre l'acqua a sufficienza, soprattutto non introdurre l'acqua legata, quella che è nella frutta e nella verdura, che quindi consente di mantenere certi livelli. E allora, quando si è in condizioni in cui, diciamo, non è che per forza bisogna essere disidratati, però basta che si alteri questo equilibrio attento che c'è nel cervello per farci sentire completamente incapaci di proseguire. Devo dire, è indubbio che questa cosa è più legata al caldo, anche se devo dire in questo momento tutti va in giro per gli uffici, ci si incontra, ci si guarda e si dice: quando vai in vacanza? È, no? Vero, la perché, prima domanda, quando molli? Perché, perché fa parte di un sentirsi, come dire, usurati anche dal punto di vista dell'utilizzo del cervello, per cui la voglia di, perché quando tu stacchi e sei l'unico che stacca sei fantastico, no? La gente ti invidia un po', però continui a stare legato col cervello alle cose. Qui l'idea che in effetti in agosto non trovi più nessuno da nessuna parte o quasi, in realtà è un ben comune, ottimo gaudio, no? E quindi le persone riescono a stare fuori anche dal contesto, a non dover più pensare in modo attivo. Ed è vero che però c'entra il caldo, perché io non ho mai sentito dire sono freddo, no? Mentre sono fuso dal caldo, è un'altra delle espressioni della stanchezza. L'essere fuso non è certo perché c'è il freddo intorno, di solito si è fusi effettivamente per questa situazione di calore intenso. Ed è questo importante, perché le persone sono, a volte le senti descritte queste stanchezze come incapacità di connettere il cervello, ed è un dato estremamente importante per capire perché queste cose danno questo stato di stanchezza. Non riesco a chiamare, sono troppo stanco, mi scrive Marco da Siena, il 349-238-6666. Allora io direi, per scrollarci un po' di dosso la stanchezza, proviamo a chiamare, perché il nostro numero verde, perché i nostri esperti vi daranno dei suggerimenti, però attiviamoci. Ho qua pronto per voi un bel bocconcino per il vostro cervello. Se una gallina e mezzo fa un uovo e mezzo in un giorno e mezzo, quante uova farà una gallina in sei giorni? Chiamateci per darci la risposta all'800 24 00 24 e uno di voi potrà ricevere a casa i primi 5 libri della collana Misura il tuo sapere, che è in edicola dal 23 luglio, ogni sabato e martedì con Il Sole 24 Ore, a soli 10 centesimi in più del quotidiano. Ogni uscita sarà dedicata ad un argomento diverso. Domani sarà la volta delle sfide logiche e matematiche, da cui abbiamo proprio preso il nostro test. Aspettiamo le vostre risposte 800 24 00 24. Dottor Speciani, e a proposito di cervello, il caldo dalla testa sarà un modo di dire, ma a volte proprio si ha la sensazione che ci sia del vero. Ma l'abbiamo detto poco fa, direi che l'effetto calura, ma attenti, perché questo effetto calura si ha ad esempio legato ad una maggiore disidratazione, si ha ad esempio nei viaggi intercontinentali. Tu sei nascosto, tu sei in aereo, ti sembra di essere protetto, in realtà è un'aria condizionata estremamente intensa e quindi ti trovi disidratato. Gli effetti immediati sul viaggiatore sono talvolta una diminuzione dell'acqua che uno ha nella pancia, quindi magari fenomeni di stitichezza che durano per i giorni successivi al viaggio. Ma questa stessa cosa si può avere anche in virtù proprio della disidratazione cerebrale, che è lieve, ripeto, però sufficiente a determinare delle risposte estremamente importanti. E quindi ci sono anche delle situazioni di necessità di supporto. Ho accennato prima al fatto che l'acqua legata, cioè quella presente in frutta e verdura, ha dentro un equilibrio di minerali, quindi soprattutto magnesio, potassio, che ci consentono di tenere in un buon equilibrio la funzione. Non è solo l'acqua, perché se uno beve acqua, in realtà butta dentro dei liquidi, talvolta semplicemente attiva di nuovo la diuresi e quindi viene eliminata l'acqua, che non è comunque male, però rispetto allo stato, ad esempio chi fa un lungo viaggio in aria condizionata e si trova poi a dover fare una conferenza, una comunicazione, a dover discutere, a dover lavorare, spesso si trova col cervello un pochettino fuori uso. Questa cosa avviene anche negli uffici e quindi è importante quando si è in un ambiente che tende a disidratarti riuscire a mantenere una buona idratazione, soprattutto attraverso frutta e verdura. Quindi i consigli sono lì poi alla fine. I consigli sono, cerchiamo di correggere un po' anche la nostra dieta in base al nostro, a quanto noi ci sentiamo, come noi ci sentiamo, perché io ho notato, dottor Speciani, che ciascuno di noi somatizza la stanchezza, sente la stanchezza a modo suo. C'è chi non digerisce, c'è chi fa fatica a dormire, chi si sente tutto rotto. Ad esempio, io quando sono stanca mi partono una raffica di starnuti. Beh, questo è interessante, vuol dire che il tuo corpo sta cercando di mettere in moto dei meccanismi compensativi e quindi ad esempio c'è proprio quella che si chiama la rinite o gustativa, quando questo dipende dalle persone che mangiano qualcosa e poi starnutano, oppure di tipo ambientale, quindi variazioni di caldo e di freddo, e però sono dei segnali di perdita di regolazione. Ed è vero quello che si dice, cioè ognuno ha il suo modo. Io ricordo uno dei miei figli che ad esempio quando diventava improvvisamente nervoso rispondeva in maniera inusuale. Capivamo che o era in crisi ipoglicemica, che aveva bisogno di mangiare, erano passate 2 ore e mezza dal pasto, oppure che c'era effettivamente una stanchezza. Io ad esempio mi accorgo quando sono stanco che piango vedendo i film, no? E questo, allora, questo è un segnale. Oltre ad attivare i nostri ascoltatori a chiamare il nostro numero verde per dare appunto la risposta al nostro test, io vorrei invitarli anche a raccontarci quali sono i segnali con cui l'organismo li avverte che sono stanchi, in modo che noi riusciamo ad intervenire rapidamente ed evitiamo che la stanchezza si stratifichi e quindi diventa molto più difficile risolverla. 800 24 00 24 professore, dottor Speciani, ci sono anche variazioni, come lei diceva, del carattere. Lei ha scritto anche un libro su questo, cioè di come l'alimentazione possa essere utile a incidere anche sul nostro umore. Ma una delle cose che notiamo di più, ad esempio quando siamo in macchina, è che ci sono delle persone che si arrabbiano e in estate sembra che sia molto più facile litigare. Ma tu dormi! No, le mani addosso, no, porca miseria! So anche le 4 di mattina! Ma per chi mi ha preso per ostaggio? E poi ti ha autorizzato a toccare i miei fogli, questi sui fogli del libro di Hendrix! No, era soltanto per chiederti un giudizio sulla parte introduttiva. Senti, sai che c'è di nuovo? Che a me le tue lettere non me ne frega, una merita ceppa, va bene? Tu sei la persona più egoista che abbia mai conosciuto! Mi fai schifo, sei vile, mi piace, sei come tutti gli altri uomini! Anche per questo, perché tu ti mascheri da buono, hai capito? Arrabbiare scherzi d'estate con il caldo, dottore, che fatica. Dovremmo contare sino a 10. Anche 11. 11. E invece che sprecare il fiato per litigare, usiamolo per ricaricarci. Ce ne dimentichiamo, ma è importantissimo imparare ad usare la respirazione a nostro vantaggio e soprattutto ricordarci di sfruttarne il potere terapeutico. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Massimo Di Gianantonio, che è psichiatra e professore ordinario di psichiatria all'Università D'Annunzio di Chieti. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Professore, c'è un sistema molto sofisticato che lavora senza che noi ce ne accorgiamo. È il sistema nervoso autonomo, che mantiene una serie di funzioni vitali, come ad esempio la respirazione, la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca. Però per fare tutto questo consuma energia. Per questo noi avvertiamo quella sgradevole sensazione che chiamiamo astenia, stanchezza, mancanza di forze. Detto questo, noi abbiamo però anche delle possibilità, c'è una soluzione, abbiamo dei modi per ridare al nostro sistema nervoso autonomo un po' di sollievo e per ricaricarlo quindi. Assolutamente sì, perché il sistema nervoso autonomo, che in termine tecnico si chiama sistema simpatico e sistema parasimpatico, è costruito con una accortezza e con una accuratezza mirabile, perché in vari organi e in vari apparati qualche volta serve da acceleratore e qualche altra volta serve da sistema frenante. Sì. Quindi tutto ciò che regola funzioni vitali importantissime, come la pressione arteriosa, come il battito cardiaco, come la frequenza dei respiri, dunque l'ossigenazione del sangue, diventano dei sistemi assolutamente perfetti per tentare di mantenere l'equilibrio migliore. Il caldo è uno degli stressors, cioè uno degli elementi che pone una sfida importante al nostro equilibrio, al nostro benessere, e quindi modifica molto profondamente l'equilibrio di questi sistemi autonomi. Dobbiamo dunque, per combattere questa sfida portata dal caldo che guasta il nostro equilibrio, avere delle piccole accortezze. Per esempio, quando noi abbiamo molto caldo e dunque il sistema parasimpatico aumenta la nostra sudorazione, noi dobbiamo tentare di diminuire l'intensità e la velocità delle nostre azioni motorie. Se stiamo camminando molto velocemente, dobbiamo ridurre il passo. Riducendo il passo, dobbiamo aumentare la profondità del nostro respiro. Diminuendo il passo e aumentando la profondità del respiro, diamo molto più ossigeno al sangue, facciamo molto lavorare di meno il cuore e quindi avremo una sensazione di immediato benessere, immediato riequilibrio. Quindi utilizziamo la respirazione tutte le volte che ci sentiamo un po' sul limite, quando la stanchezza ci schiaccia. Professor Di Gianantonio, un altro consiglio quale può essere? L'altro consiglio può essere quello di... Non lo sentiamo più il professor Di Gianantonio. Un altro consiglio, dottor Speciani, che lei dà spesso è quello di muoversi, fare una sorta di cardio fitness. Sì, assolutamente, perché di fatto naturalmente non nelle ore calde, non sotto il sole, però ci sono un mucchio di possibilità. Davvero, svegliarsi al mattino, la gente tende a svegliare, dice non riesco a dormire, si sveglia con appena ci sono le prime luci, è un'occasione buona ancora col fresco per andare fuori a camminare. Naturalmente cercheremo di riprendere il collegamento col professor Di Gianantonio, ma nel frattempo proviamo, dottor Speciani, a individuare, no? Tanti modi di dire che stanno arrivando anche al nostro 349-238-6666, che mi dicono sono alla frutta, sono stanco, sono all'ablativo, sono sui gomiti, e ciascuno di noi prova a dare una spiegazione a questo stato di cose. C'è chi dice ad esempio sono stanco perché il caldo mi abbassa la pressione, c'è chi dice sono senza forze perché sudo molto, perdo i sali minerali e quindi, o ancora c'è chi dice magari in questo periodo dell'anno col caldo non ho più tanta fame, mangio quando mangio meno e ho le gambe molli. Allora, dottor Speciani, sappiamo che attraverso la dieta, attraverso quello che noi scegliamo e mangiamo, e anche i momenti della giornata in cui assumiamo determinati alimenti, possiamo aiutare il nostro organismo a contrastare gli effetti del caldo e della stanchezza, perché abbiamo visto che non è solo il caldo comunque il responsabile. ci sono quei tre esempi che hai fatto che sono assolutamente simpaticissimi, perché proprio rappresentano il modo in cui ognuno vive il suo vissuto personalmente e lo fa diventare regola generale. E nello stesso modo io credo ci siano alcuni spunti, dico proprio in maniera estremamente semplice: i cibi e soprattutto la frutta legata al potassio, quindi albicocche, le patate che talvolta possono sostituire il pane appena bollite, le pesche ad esempio sono tra le prugne, sono tra la frutta che contiene molto potassio. Quindi il fatto di poter utilizzare questo tipo di frutta nella propria alimentazione durante il giorno ci aiuta sicuramente a tenere in equilibrio quell'aspetto che io dicevo di acqua legata, cioè in realtà di acqua che noi mettiamo nel nostro corpo legata con i sali minerali che tengono in equilibrio l'idratazione del cervello e quindi poi la nostra funzionalità. E dall'altra parte invece l'elemento importante è cercare di evitare durante la giornata i cibi salati. Ne abbiamo già parlato, credo, proprio sui gonfiori, sì. Una delle volte scorse in cui ero presente qua, però il fatto di mangiare pane, formaggio, prosciutto, salami, cracker, biscotti eccetera durante il giorno in realtà favorisce il fatto di trattenere i liquidi anziché dentro nelle arterie, quindi che ci tengono su la pressione, certo, la vitalità eccetera, di trattenerlo nelle nostre parti molli. E quindi il suggerimento importante di mantenere frutta, verdura durante la giornata, e poi quando viene più fresco alla sera, a quel punto sì, ci concediamo la pizza, la caprese, il pane, il prosciutto e il salame, che tutto sommato, se intervengono trattenendoci un po' di liquidi alla sera, siamo di solito in maggiore possibilità di rilassarci, di viverci con maggiore tranquillità e di tenere magari le gambe sollevate senza dire niente a nessuno. Professor Di Giannantonio, l'abbiamo ripescata, ecco. Intanto sì. Io dico ai miei ascoltatori, pensate alla gallina, perché tra poco vedremo quante uova fa. Professore, allora, importantissimo è anche tentare di ascoltare nel modo più profondo i segnali, i messaggi, i bioritmi, i celeberrimi ritmi circadiani che il nostro corpo ci manda. Cosa voglio dire? Se durante le sere d'estate ci sentiamo assolutamente stanchi alla fine della giornata e in qualche modo vogliamo vedere il nostro programma televisivo, vogliamo andare a dormire tardi, in realtà no. Se sentiamo quella stanchezza, se sentiamo un certo grado di rilassamento, dobbiamo obbedire al nostro corpo e andare a dormire molto prima di quello che noi ci siamo prefissati. Non farci dare i ritmi, il timing dalle condizioni esterne, quel programma televisivo, quella partita, quella cena con gli amici, ma ascoltare profondamente il messaggio profondo del corpo e quindi magari andare a dormire molto prima, perché questo è attente, è molto legato a ciò che il corpo ci fa capire, e quindi mettersi in sintonia con il corpo ci dà dei vantaggi straordinari. Tutta la medicina ayurvedica orientale è dettata all'apprendimento dei messaggi profondi che il nostro corpo ci manda, e questo lo possiamo fare sia per quanto riguarda l'alimentazione, sia per quanto riguarda il moderato lavoro fisico, per quanto riguarda l'attenzione alle cose che il nostro corpo ci suggerisce. Quindi massima attenzione a ciò che noi stessi diciamo al nostro corpo. Professor Di Giannantonio, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Grazie, mi raccomando, non abbiate troppo caldo. No, ma qua devo dire, anzi in studio siamo gelati, vero? Sì, assolutamente. Qua ci tengono belli, belli sotto zero. Dovreste chiedere dei cesti di frutta per poter gestire. Va bene, la prossima volta un po' di frutta. Grazie professore, buona giornata. Arrivederci. Allora, Umberto ci chiama da Cuneo, vediamo se è stanco o se ha pensato alla gallina. Umberto, buongiorno. Buongiorno, buona giornata. No, non sono stanco perché sono in macchina che guido e sono in vacanza. Ma che bellezza. Dove va? Sono sul lago di Iseo. Vede, lei è iniziata da poco le vacanze? Fa ieri. Va, quindi... Sta godendo al massimo. E quindi immagino che lei ci chiami per la nostra gallina. Sì, direi mi sembra 6 uova. No. Umberto, anch'io avrei detto 6, devo dirle, ma non è 6. Grazie Umberto, buone vacanze. Arrivederci. Anche a lei. Dottor Speciani, vogliamo quindi ricordare la frutta, perché è quella ricca di potassio, ma le banane fanno bene? Mi scrive Alberto. Sì, se sono bilanciate con altra frutta un pochettino più fresca. Io tendo a dire che dovremmo avere sempre della frutta di stagione. La banana oggi è diventata un po' la posso mangiare sempre, in realtà dimenticandoci che ha viaggiato molto a lungo, che in realtà è stata raccolta non matura e ci viene fornita maturata attraverso il viaggio, maturata attraverso una serie di stimoli diversi. Quindi è un cibo buono, ricco anche di carboidrati, comunque con presenza di potassio, però non è un cibo di cui, un frutto di cui io suggerirei, soprattutto nella nostra Italia, voglio dire, dove abbiamo delle produzioni di frutta fresca, buona e naturale, sicuramente più ampia, quindi farne uso con giudizio, ecco. Allora, dove avvertite la stanchezza, anche se un ascoltatore mi dice che abusiamo, no, di questa parola, spesso diciamo sono stanco, in realtà in questo periodo dell'anno, diciamo la verità, abbiamo voglia di andare in vacanza, ci sentiamo le pile scariche, io starnutisco di più, un'altra persona magari non riesce a dormire e si innervosisce anche quando il medico dice dorma, ma io vorrei dormire, ma sono talmente stanco che non riesco più, oppure magari le persone che avvertono proprio questa difficoltà digestiva. Di tutto questo parliamo nel corso della trasmissione, aspettando anche i vostri suggerimenti. Abbiamo Michele da Brescia, prima di andare ai mercati. Michele, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, salve. Lei è stanco o pensa alla gallina? Ma io sono abbastanza stanco, infatti fra poco partirò, la gallina ci ho pensato un attimo 5 minuti, però fra un po' si va tutti in vacanza. Bene, bene Michele. Lei ha un risultato da darmi? Sì, io pensavo a 4, facendo così due conti al volo. Come, perché ha pensato a 4? Se ho capito bene, perché era talmente veloce che avevo capito una gallina e mezza in un giorno e mezzo. Per un se una mezzo, la sentiamo ancora una, aspetti Michele, la sentiamo e poi lei mi dice che come è arrivato a questo risultato. Sì. Vediamo se è vero, io vado a vederlo. Se una gallina e mezzo fa un uovo e mezzo in un giorno e mezzo, quante uova farà una gallina in 6 giorni? Allora, Michele, lei che cosa ha pensato? Il ragionamento che ho fatto io era: una gallina e mezza fanno un uovo e mezzo in un giorno e mezzo, quindi una gallina fa un uovo in un giorno e mezzo. Mm. Quindi moltiplicando, cioè dividendo i 6 giorni per 1 e mezzo, mi è venuto 4. Questo è il ragionamento. Ho trasformato la gallina e mezzo in una gallina unica. Ah, senta. Senta, comunque io vado, allora domani, ne dico con il Sole 24 Ore, a soli 10 centesimi in più, avremo questo libro, questo Misura il tuo sapere, dove ci sono le sfide logiche e matematiche, ci sono questi test e poi ad ogni test ha un numeretto e si va a vedere la soluzione. Il numero è giusto, quello che mi dice lei, è 4 e la spiegazione è: una gallina e mezzo fa 6 uova in 6 giorni, perciò una gallina ne fa solo 4. Grazie Michele, allora lei potrà ricevere a casa i primi 5 libri di questa collana Misura il tuo sapere, che è in edicola il sabato e il martedì. Complimenti e buone vacanze. Essere e benessere. Estate 1992, l'estate delle mie e delle tue vacanze. Automobili giù tutti i finestrini, anche i più grandi che ritornano bambini. Il gioco prende il sopravvento sulle cose serie. Il lavoro si trasforma in ferie. Lo studio diventa vacanza. Il cielo lì che ti aspetta fuori dalla stanza, vai. Se non avete caldo, io in questo momento devo dire che sono gelata, ho mani e piedi gelati, ma siete stanchi, chiamateci 800 24 00 24. Ciascuno di noi ha proprio il tallone d'Achille. Quando è stanco lo capisce, perché come una spia, no? Si accende, tu sai che sei un po' arrivato alla frutta. Alberto ci chiama da Treviso, buongiorno Alberto. Buongiorno. La gallina ormai è andata, La gallina è andata, va bene. Complimenti sempre per la trasmissione, non me ne do una. Grazie. Allora, Alberto, io sono in una situazione di estrema stanchezza. Sono un libero professionista e in questo periodo ho dei cali di concentrazione elevati, come elevata la mia sudorazione nel periodo estivo. Sentivo parlare di integratori, ma purtroppo oggi, e non ho scuse, vi ho preso a metà e non ho capito che genere di integratore. Poi per quanto riguarda la frutta, io chiedo anche quando la devo mangiare, perché se la mangio vicino ai pasti la mia pancia si dilata in maniera assurda. E sì, poi i bottoni tirano, vero? Sì. Esatto, già tirano per la vita sedentaria. Però insomma, no, perché poi bisogna mettersi lì, cucirli. Dottor anche Speciale. Perché con lo sport, mi scusi, sì. Chiedo scusa, con lo sport che faccio sudo veramente tantissimo, anche in confronto, voglio dire, alle altre persone, quindi veramente perdo tanti sali. Volevo sapere cosa potevo fare, grazie. Grazie Alberto, bisogna ritirarlo su, perché ci ascolta sempre. Guarda, tra l'altro ci sono due o tre elementi assolutamente interessanti in quello che racconta. Suda molto e ha questa situazione di gonfiore addominale. Devo dire che nella mia esperienza di lavoro in ambito nutrizionale, quindi sui temi delle allergie alimentari ritardate, è una tipica situazione legata spesso ai lieviti, cioè ai cibi fermentati. Intanto ribadisco sempre che non c'è mai nessun cibo che sia cattivo di per sé. A volte quando si sviluppano delle reattività alimentari, queste vanno poi solo rieducate, però è abbastanza tipica questa cosa, perdita di concentrazione, gonfiore addominale, tanto che anche il mangiare cibi sani come la frutta gli determina a questo libero professionista dei fastidi addominali. Allora, due o tre suggerimenti immediati. Il primo, provare effettivamente durante il giorno a stare senza cibi fermentati, cioè come dicevamo prima, che è proprio la terapia per questa fase calda, quindi pane, crepe, grissini, formaggi, biscotti, provare a lasciarli solo alla sera e quindi durante il giorno fare a meno, quindi mangiare ad esempio del couscous, che è, oppure una pasta asciutta, il riso bianco, il riso integrale meglio, ma con dentro un po' di verdure tagliate senza metterci dentro però i würstellini e il formaggio, no? Per farsi un'insalata di riso di questo tipo, che diventa ricca. Ricadiamo dall'altra parte. Allora, già questo è una tecnica operativa importante. La cosa che vorrei ricordare è che la prima colazione rimane un punto focale, una cosa che abbiamo descritto moltissimo anche per i fenomeni depressivi in questo libro Prevenire e curare la depressione con il cibo, che ho scritto con mio fratello. Ma la prima colazione, quindi fatta entro un'ora dal risveglio, se diventa il pasto dominante, importante, più importante della giornata, noi abbiamo nei confronti dell'energia, del tono, dell'aspetto anche della concentrazione un netto miglioramento. Ecco, io volevo prendere un attimo spunto da quello che lei ci racconta sulla prima colazione, che è un nostro cavallo di battaglia, vero dottor Speciani? Ecco, allora invitiamo i nostri ascoltatori a fare una prova per una settimana, anche se non avete molto appetito al mattino, anche se dite io ho lo stomaco chiuso, ho la nausea, provate, sforzatevi di mangiare cose buone per una settimana e poi confrontiate come state, come stavate, come state. Basta una settimana per vedere i primi risultati? Sì, ma guarda, l'elemento a volte lo vediamo, le persone arrivano in studio e ti dicono quando gli spieghi come fare questa cosa, quindi di gestire una prima colazione in cui siano bilanciati proteine e carboidrati, dicono ecco, quando ero al club o quando ero in Trentino o quando ero mi facevano mangiare a prima colazione un mucchio di cose che non ero abituata, ho perso 2 chili ed stavo benissimo. Certo, ecco. Erano anche in vacanza, però il fatto che migliori il metabolismo, migliori l'attività, migliori anche la testa fondamentalmente attraverso questo tipo di meccanismo è oggi una cosa anche documentata dal punto di vista scientifico, e perdersela è proprio un peccato. Andiamo a Romano, chi ci chiama da Milano. Buongiorno Romano. Buongiorno a voi, grazie, complimenti per tutte le informazioni che ci date. Volevo chiedere questo: a me col caldo, non tanto la stanchezza, ma quando la calura è forte, non come quella di Milano di questi giorni, quando è forte mi prendo un calore al volto, sì, a tutta la testa, che non riesco più a dominare, e questo mi disturba, non mi permette neanche di dormire. Si sente la testa bollente. Sì, credo che faccia il pandan con gli starnuti di Nicoletta, nel senso che Romano, cioè, troviamoci. Lei starnuti, io starnutisco, lei va con la testa in ebollizione, il dottor Speciani piange e a lei cosa si deve fare? In effetti, la testa bollente è uno degli elementi proprio di una variazione, ognuno ha le sue, no? Come dicevamo all'inizio, sì, della trasmissione, e questo significa che c'è una perdita della regolazione vasomotoria. Il termine scientifico è questo, significa che uno si può trovare le mani roventi, sudante da tutte le parti, un po' come se uno avesse le caldane, no? Sì, fondamentalmente, ed è un segnale, credo, più che una situazione da aggredire, va interpretato esattamente come un segnale, che quindi corrisponde al fatto che Romano ha sicuramente da andarsene in vacanza. pancia, sì. come giustamente si diceva prima, e una regolazione ad esempio con un po' di magnesio, per cui effettivamente quando si parlava di mangiarsi frutta e verdura, questi contengono naturalmente del magnesio, che è un ottimo regolatore di questi elementi di stimolo vasomotorio, per cui mi raccomando, cioè l'importante è che qualcosa sia mangiato in maniera positiva, lasciando il pasto forse un pochettino più ricco di cibi salati alla sera, però che la frutta e la verdura non manchino nella tua alimentazione quotidiana in modo determinante. Marcella, dalla provincia di Milano. Sì, io volevo parlare della mia stanchezza. Marcella, quando è che io ad esempio ho dei periodi, dei momenti della giornata in cui sono più stanca che in altri. Marcella, lei? Io mi sveglio e sono stanchissima, comincio a carburare dal pomeriggio. Passo tutta la mattinata ad aggirarmi e cercare di fare qualcosa, ma non carburo proprio. Verso sera sono pimpante, voglio pronta per uscire ad andare a ballare. Dottor Speciani, può essere tante volte quando al mattino non carburiamo, pensiamo alla pressione bassa. E questa è una delle frasi fatte un po' da tutti, poi talvolta è vero, talvolta no. Ad esempio, una delle caratteristiche della stanchezza, soprattutto mattutina, è la carenza di manganese e la carenza di vitamina B6. Quindi, dove li troviamo? Li troviamo ad esempio in alcuni, nelle carni, nei pesci, nelle verdure a foglia larga, li troviamo nelle noci, li troviamo, per chi non è intollerante, nel lievito di birra ad esempio, o in sostanze di questo tipo. Devo dire che infatti io, che uso spesso terapie con minerali di supporto, mi rendo conto che fenomeni di questo genere, utilizzando il giusto antiossidante, utilizzando una giusta miscela di minerali, portano poi le persone a sentirsi come rinate, a guadagnare qualche ora in più tutto sommato, perché certo. Poi ognuno, gufo all'odola che sia, no? Nel suo, talvolta l'importante è non portare all'estremo questo tipo di meccanismo, e quindi una giusta equilibrata alimentazione tende a riportare verso l'equilibrio questa situazione. Quindi anche Marcella potrebbe ad esempio iniziare ad integrare un po' la sua alimentazione con frutta e verdura di tipi differenti, con valutando quanto ad esempio sta mangiando a prima colazione. L'abbiamo detto prima per tutti, vale anche per Marcella. A volte le persone si svegliano stanche e non hanno neanche voglia di fare prima colazione, che diventa un problemino nella gestione poi dell'energia nel corso della giornata. Sentiamo ancora Angela dalla provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Io volevo chiedere questo, mio figlio quando è molto stanco prende del guaranà, volevo sapere, è utile, ha delle controindicazioni, è un'abitudine, una cattiva abitudine? Una buona abitudine, esatto. Allora vediamo un pochino con il dottor Speciani, è una buona idea prendere il guaranà? Ma ci sono questa serie tipo l'eleuterococco, il ginseng, il guaranà, sono tutti prodotti che sono un po' entrati nella tradizione, con un'azione un po' da sferzata dell'energia. Devo dire che questa stessa cosa la fa anche la caffeina o la teina, cioè noi abbiamo, quante persone in realtà vanno al bar dell'ufficio, al bar di fronte a casa a prendersi il caffè o il tè o qualcosa, perché stanno cercando tradizionalmente uno stimolante generale, sì, nel momento che ti tiri di stanchezza. Su, più lo mandi giù, ecco, più lo questo, tiri su. Questo però mi dà un'occasione abbastanza interessante per dire che quindi se non ci sono specifiche controindicazioni fa parte un po' di una tradizione che è culturalmente distribuita, diffusa in tutto il mondo, in tutti i modi. Una vera attenzione allo zucchero. Allo zucchero e anche ai dolcificanti, questo vorrei proprio dirlo, perché le persone, ad esempio, mi viene da ridere un po' nei caffè al ginseng che vengono utilizzati oggi, che sono in realtà come sembrano dei cioccolatini, perché sono fatti con zucchero preparati, quindi tu hai una sferzata di energia, lo zucchero dentro che ti fa avere una botta di iperglicemia e dopo 20 minuti botta di ipoglicemia in cui uno si sente stanco di nuovo. Allora attenzione all'uso indiscriminato dello zucchero, perché il dolcificante zucchero può portare a queste oscillazioni di alto basso d'energia che in realtà non fanno che ricreare il problema. Vi ricordo, adesso andiamo subito, Carmelo Lauricella mi dice che siamo pronti per andare a sentire le informazioni sul traffico, ma io vi ricordo che tutte le nostre puntate potete riascoltarle in podcast, come si dice, scaricatemi. E abbiamo fatto una puntata proprio su sale e zucchero che potete andare a riascoltare. Allora, viabilità. Essere e benessere. E siamo di nuovo qui, abbiamo cercato di scegliere un po' gli alimenti giusti per carburare, e dal piacere del gusto io direi, dottor Speciani, passiamo al piacere o meglio al potere del tatto, forse dovrei dire contatto, ma lascio che a correggermi sia Marco Mazzotta, che è in linea con noi, riflessologo e terapista della Fondazione Apostolo. Buongiorno, bentornato. Buongiorno Nicoletto, sempre un piacere tornare nel suo salotto, dando consigli importanti per la nostra salute. Allora, affidare i nostri piedi ad un riflessologo sarebbe un toccasana, però... Perché è un ricarico energetico dal piede sinistro al piede destro, dove andiamo a rimettere il nastro isolante dove ci sono i chili scoperti. Questo è per rendere un'idea chiara di quello che è il massaggio della riflessologia plantare. Mi piace molto, glielo ruberò. Però lei sa bene che bisogna cercarlo, prendere appuntamento, andare. Allora, ci insegna lei qualcosa di utile e semplice che possiamo fare da soli per ricaricarci un po'? Prendiamo la mano o il piede? Prendiamo la mano, che è più facile, possiamo tirare il dito medio verso il dorso della mano, sì, con l'altra mano aiutandoci chiaramente, e si alzerà una piccola gnocchetta sotto il dito medio. Sì. Questo, massaggiando con la mano con cui abbiamo fatto la trazione, questo è il nostro plesso solare, cioè il nostro terzo occhio. Massaggiando il plesso solare, che lo troviamo chiaramente sulla mano e anche sul piede, però è più facile farlo sulla mano, diamo un ricarico bello di energia, una bella sferzata per ricaricarci, massaggiando il pollice dalla parte verso il palmo della mano nel centro, massaggiamo la nostra ipofisi. E quindi anche lì, per quel signore che ha parlato prima, che aveva questa testa molto scottante, molto calda, questo e quell'altro, avendo problemi sicuramente anche di circolazione, questo e quell'altro, massaggiando l'ipofisi, anche quello può rallentare questa calura, questa sensazione di stanchezza, e possiamo massaggiare. Siamo anche tutti qua che massaggiamo, anche il dottor Speciani, siamo qua con il dito medio tirato. È uscita la gnocchetta e massaggiamo dal plesso solare. Fantastico. E come dice il dottore, chiaramente il magnesio è importantissimo, bisogna bere molto perché logicamente ci si disidrata di più, e quindi bere è essenziale, come è essenziale la colazione della prima mattina, per darci una bella botta di energia, per conservare l'energia per tutta la giornata. Poi possiamo massaggiare il piede. Dai, allora io mi tolgo il piede. Siamo qua. Prendiamo il piede sotto il polpastrello, la parte più cicciotta delle dita, sì, e la parte centrale, sfarfallando con i due pollici delle mani, partendo da sinistra e da destra, sfarfalliamo nel centro del piede. Anche lì andiamo a rilassare il nostro intestino, perché il nostro intestino, chiaramente, poi con questo caldo, con queste botte di caldo e freddo, aria condizionata piuttosto che, ne risente, quindi anche l'intestino si appesantisce e ci dà delle sensazioni di stanchezza. Poi sappiamo che l'intestino è il nostro secondo cervello, quindi... Assolutamente, infatti in questi periodi di gran caldo, per chi ha problemi di intestino, io suggerisco, ripeto, con consiglio medico, perché non sono un medico, di non bere latte e di non mangiare yogurt chi ha dei problemi di intestino, perché il latte e lo yogurt, essendo molto pesanti da digerire, automaticamente vanno a influire, quindi a portare un lavoro ulteriore all'intestino, quindi ulteriore stanchezza. Ecco, quindi, dottor Speciani, sentiamo il parere di un medico. Ecco. Marco infatti dice, io lo dico come riflessologo e... Ma diciamo che le reattività nei confronti dei latticini sono estremamente frequenti, e spesso proprio questa situazione di alternanza caldo-freddo rende più conto di fenomeni colitici, di cui talvolta la presenza sia dei latticini sia però anche di altre sostanze può intervenire. Devo dire che ormai ho imparato che il rapporto con l'alimentazione è sempre strettamente individuale. Per anni si è detto, togliamo i latticini, facciamo mangiare la soia. Oggi gli allergici alla soia sono strettamente uguali come numero a quelli degli allergici al latte, quindi va individualizzato. Piuttosto, se c'è un elemento di indicazione, ad esempio, di lateralità, questo adesso lo domandavo mentre ci massaggiavamo, no? Vedevo che tutte e due noi ci stavamo massaggiando, io massaggiavo la mia mano sinistra mentre Nicoletta si massaggiava la mano destra. Dal punto di vista riflessologico, cosa... uno all'altro viene anche meglio se ve lo fate uno all'altro tirando indietro. Adesso abbiamo le cuffie, poi sa com'è Marco, non sembra neanche carino, perché dico, venga qui, già vieni in onda, vieni in studio, adesso dottor Speciani il piede, però ci sono delle indicazioni. La mano destra vale come la mano sinistra o no? La mano destra vale come la mano sinistra nel caso di questo plesso solare, poi chiaramente ci sono degli organi riflessi sulla sinistra e gli organi riflessi sulla destra. Sulla destra abbiamo fegato, cistifeglia, sulla sinistra abbiamo cuore e milza, quindi logicamente poi l'appendice è sulla destra, quindi in base alla posizione del corpo logicamente ci sono i punti riflessi esattamente o a sinistra o a destra. Insomma, quindi, dobbiamo il riflesso solare sia sulla sinistra che sulla destra va fatto su tutte e due le mani o tutti e due i piedi, assolutamente sì. Grazie a Marco Mazzotta per essere stato con noi, dobbiamo fare una puntata così assolutamente iniziamo, ci tocchiamo tutti i punti. Così andiamo. Grazie Marco, buona giornata. Buona vacanza. Arrivederci di nuovo. Io direi però in chiusura di fare una riflessione a voce alta. Proviamo ad andare oltre, ad interrogarci se sulla nostra stanchezza e sul nostro calo di energia. È veramente colpa del caldo? È veramente colpa del lavoro? È veramente colpa magari delle ore magari non sufficienti di sonno? Allora, riflettiamo a voce alta, ci aiuta a farla la saggezza della medicina cinese. In linea con noi abbiamo la dottoressa Tiziano D'Onofrio, che è direttore scientifico del Centro Studi per le Medicine Naturali IDO di Teramo. Buongiorno dottoressa. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, dottoressa, sì. Più che stanchi, a volte ci sentiamo spenti. Ecco, e do a questo aggettivo un significato un po' più vasto. Ecco. Infatti io condivido pienamente la sua riflessione. Siamo veramente stanchi o forse ci sentiamo un po' depressi, svuotati, forse non siamo abbastanza innamorati di quello che stiamo facendo. Ed ecco qui che abbiamo bisogno non solo di stare sdraiati sotto l'ombrellone e riposarci, dormire qualche ora in più, forse abbiamo proprio bisogno di riportare un po' di luce in profondità, di avere quell'entusiasmo, quell'energia che ci rendono invincibili, immortali, inarrestabili. Ecco, quando facciamo delle cose che ci piacciono, quando siamo innamorati, ad esempio, no? Esatto. È così. Noi possiamo essere innamorati anche del nostro lavoro, certo. Anche di un progetto di vita che ci appassiona e che magari non fa parte del nostro lavoro. E finché esiste questa fiamma di innamoramento, la stanchezza, mi creda, è davvero un particolare secondario. Dottoressa, c'è un meridiano che aiuta a portare la luce? Guardi, le dico il nome di questo meridiano. Questo meridiano si chiama Yang Ming, che vuol dire proprio Yang luminoso. Yang per noi equivale a, per la medicina cinese classica, equivale al concetto di calore, di sole, di energia nutriente, vitale, movimentata, cioè che dà movimento, che dà proprio attività. E Ming vuol dire luminoso. E questo meridiano, che si trova in una zona invece che è definita Yin del corpo, guardi la cosa particolare e non casuale, un meridiano che è la luce perfetta, che si trova nel cuore, nel centro di ciò che simboleggia il buio e il freddo, la zona Yin, che è la zona anteriore del corpo. E questo è il meridiano dello stomaco, meridiano Zhu Yang Ming, che ha proprio questa funzione, portare la luce in profondità. Quindi è proprio il meridiano che ci interessa quando la stanchezza non è soltanto fisica ma è anche mentale. E che quindi voi, mi scusi dottoressa, attivate con stimolandolo con gli aghi, giusto? Con gli aghi o anche col massaggio, certo. O anche con gli oli essenziali, lo sa, possiamo anche utilizzare gli oli essenziali su questi punti e fare dei piccoli massaggi sul punto per attivare ugualmente. Noi lo facciamo per esempio nel trattamento anti-invecchiamento del viso. Usiamo oli essenziali su punti di acupuntura al meridiano dello stomaco con un effetto bellissimo. Allora, lo vogliamo localizzare? Localizziamolo. State allora. Allora, io tra l'altro sul nostro profilo Facebook, Laura Vanossi metterà questa foto. Bellissimo. Dove potete vedere, ce l'ha gentilmente concesso il centro della dottoressa D'Onofrio, e così potete visualizzarlo. Ma intanto, dottoressa, provi a raccontarcelo lei. Ce partiamo dagli occhi. Allora, raccontiamo i primi punti, quelli che ci servono tanto. Allora, se noi guardiamo l'orizzonte, sotto la pupilla, lì dove incontriamo il bordo osseo dell'orbita, lì troviamo il primo punto. Sì. Poi più o meno il meridiano scende sul viso fino ad incontrare l'angolo delle labbra. I meridiani sono bilaterali, ne abbiamo certo. Una a destra e una a sinistra. Incontriamo l'angolo delle labbra e poi ascendiamo ancora più in giù fino a che noi incontriamo il bordo osseo proprio della mandibola. Eccolo. Bene, l'ha trovato? Certo. Ecco, quello è il quinto punto, il meridiano dello stomaco. Questi punti sono tutti importanti, però sia il punto che troviamo all'angolo delle labbra che quello che troviamo sul bordo osseo, poi ecco sul vostro profilo Facebook lo potrete vedere ancora meglio, se massaggiati e stimolati con diversi minuti al giorno, 4-5 minuti al giorno, hanno proprio questo compito di riportare questa energia yang luminosa al cervello, alla pelle e anche nella nostra profondità. Allora, non resta che andare sul nostro profilo Facebook e noi abbiamo la mappa di questi punti. Il dottor Speciani, vedo lei ha già cambiato faccia, dottor Speciani, vede? Noi ci toccheremo questi punti. Intanto io vi ringrazio, vi aspetto domani. Carmelo Lauricelli regge la parte tecnica, Laura Vanossi come sempre in redazione. Grazie a voi, grazie al dottor Speciani. Grazie a tutti. A domani. Essere e benessere.